fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Un altro sabato sera all'interno della nostra Resto Radio Convento, ovviamente la web radio qui al convento di Lonato del Garda, e come nostra consuetudine fare apriamo il nostro spazio ai festeggiati per dar loro qualche minuto per farsi conoscere, insomma, ma soprattutto per raccontarci il motivo della loro festa, anche perché questa sera è una serata davvero importante per un ragazzo che c'è qui, per tanti ragazzi, ma uno in particolare che siamo riusciti ad avere ai nostri microfoni. Andiamo a conoscerlo e intervistarlo. Allora, benvenuto, come ti chiami? Sono Davide. Davide, ciao, ciao Davide, da dove vieni? Da Pozzolengo. Pozzolengo, benissimo. E perché è una serata così speciale per te? Dici un po'. È una serata speciale per me perché sto festeggiando il mio 18° compleanno. Oh, che bello, che bello. A questo punto ti chiediamo anche quando è stato il giorno giusto. Il giorno giusto è stato il 14 novembre. 14 di novembre, quindi una decina di giorni fa. Ok, perfetto. E beh, insomma, tempo di raccogliere un po' di amici, un po' di invitati, diciamo così, ad organizzare. E hai scelto, insomma, questo sabato per festeggiare. Cosa fai di bello? Immagino studi nella vita. Sì, studio e tutti i giorni nuoto, agonista. Ah, davvero? Non si vede che nuoti, non si vede, perché bisogna costruire un altro piano per farti stare, perché è altissimo, quindi non si vede. Nuoto, cioè uno stile in particolare, tutti, nuoto, cioè nel senso, come dire, acque aperte, cosa ti piace? No, io faccio nuoto agonistico, tipo le gare, e il mio stile preferito è delfino, ma faccio anche lo stile libero. Ah, delfino, aspetta, delfino è quello che va indietro, no? No, cioè che guardi tutte e due le braccia. Ah, giusto, giusto, scusa, quello è dorso, giustamente, sì. Ok. Quello è che è il più difficile, tra l'altro. Sì. È uno stile molto difficile perché c'è una spinta verso l'altro, giusto, con... Che però cos'è, di gamba o di bacino, no? Sì, è più che altro un movimento di bacino. Esatto, non è tanto di gamba la spinta. Quindi c'è la spinta verso l'alto col bacino e poi una schiaffata all'acqua fortissima con le braccia che poi raccogli per spingerti avanti, no? Le gambe non è che fanno tanto, me lo confermi? No, sì, anche quelle, però più che altro le braccia. Esatto, è un lavoro di braccia. Come mai ti piace il delfino tra tutti? Perché è lo stile preferito del mio, diciamo, idolo del nuoto, che è una leggenda del nuoto, perché ha vinto un sacco di medaglie olimpioniche, ne ha vinte 24-23. Sì. Medaglie d'oro olimpioniche. Sì. E si chiama Michael Phelps. Vabbè, Phelps, grandissimo, che si è ritirato, se non sbaglio. Sì, esatto. Tra virgolette, incredibilmente, si è ritirato, cos'è, non aveva neanche 30 anni probabilmente. Però no, sì, aveva 30. Ah, 35, scusa. Beh, comunque, insomma, aveva detto che il clima delle gare, insomma, non lo affascinava più, insomma, non gli dava più stimoli, aveva già vinto tutto. E sì, si è ritirato veramente giovanissimo. Ok, da quanti anni nuoti? Da quando ho 4 anni, quindi 14 anni. 4 anni, 14 anni, quindi è un bel, insomma, un bel po'. Sì, un bel po'. Quest'anno, pensa un po', guarda, a maggior ragione sei nato il 14 di novembre, nuoti da 14 anni e festeggi 18 anni, quindi vedi che anche numericamente un po' tutto torna. Raccontaci, beh, cosa studi intanto? Geometra, con l'ambizione, speranza, desiderio di diventare cosa? Ingegnere. Ah, ingegnere, vedi, hai già la tua, come dire, strada bella bella tracciata. Vorresti continuare col nuoto o pensi che prima o poi smetterai per i vari impegni della vita? No, io spero di potermi proprio creare una carriera. Ah, ok, quindi vorresti sperare comunque di diventare agonista o mal che vada, o ben che vada, insomma, come funziona di andare sull'ingegneria. Ok, ok, bene, bene, bravo, ci piacciono le persone che hanno le idee ben chiare. E a proposito di persone, ne hai tante questa sera qui con te, vuoi... alcune sono qui, altre sono fuori, vuoi presentarcele? Sono rimaste solo mia cugina, le mie cugine. Sì? Mio amico. Sì? E mia madre. Ah, bene, quindi cugine, mamma e amico. Sì, la mamma non la vediamo perché sta... Esatto, se ne sta raccogliendo i funghi, perché è andata a caccia di funghi, è nel bosco e si sta guardando per terra a raccogliere i funghi. E poi l'amico e le cugine, dicevi? Ok, mi permetto, vedendo i lineamenti, che mi sembrano anche che ci siano delle origini, come dire, anche... Latine. Latine, no? Giusto? Colombiane, pensa un po'. Di dove? Di... Bogotà, quindi Ah, la capitale, Bogotà, e da quanto state o stanno qui? Non so se tu sei nato in Italia. Io o... sì, sono sei nato in Italia. Quindi da quando da quella che raccoglie i funghi, penso sia lei che si sia mossa. 20 da? 20 anni. Ah, da 20 anni, bene, bene, bene. Però Colombia-Italia è un bel viaggetto, no? Sì, già. È un bel viaggetto. Tra l'altro, insomma, io ho avuto modo di vederle anche durante la serata. So che hai anche una sorellina, giusto? Esatto. A cui sei molto legato, perché ti ho visto molto, molto vicini, molto, molto insieme. Che ha quanti anni? Ne deve compiere a gennaio 8, quindi insomma, ancora in quella fascia in cui si è grandi, ma nemmeno tanto. E come si chiama? Camilla. Oh, Camilla, che mi diceva all'inizio della serata le piace la matematica. Quindi diciamo che in famiglia andate forte con i numeri. Tra un ingegnere e una che le piace la matematica a 8 anni, invece di guardare i cartoni animati, mi diceva che le piaceva la matematica. E andate forte con i numeri. Bene, bene, bene. Allora, qualcuno dei presenti vuol salutare, vuol dire qualcosa? Si identifichi prima di tutto. Ciao, mi nome mi chiamo, un po' dimenticato. Va bene, come ti mi viene? Va benissimo. Ma hai dimenticato il tuo nome o come si dice? No. Ah, ok, no, pensavo ti fossi dimenticato il tuo nome. No, semplicemente come si dice? Bene, bene. Ti chiami? Mayra. Mayra? La cugina, però non hai mangiato la stessa cosa che ha mangiato lui, perché lui è 20 metri più alto. Sì, insomma, hanno sbagliato la dieta. Da qualche parte hanno sbagliato a dare le porzioni. Ok? Ok? Vuoi dire qualcosa? Niente, tanti auguri a lui. Grazie. Che gli vogliamo molto bene, che è un bel ragazzo, è molto gentile. Ci sta provando la cugina, mi sembra. Ci sta provando un po', è un po' intraprendente, bene? Bene, mamma vuol mandare un messaggio. Ha accolto i funghi, cosa ha trovato? Mamma ha raccolto. Dai, vieni che vogliamo sentirti, dai, vieni, non ti preoccupare. Erano buoni i funghi? Come li fai? Li cucini domani? Vai, come ti chiami? Avvicinati, eccola, vai. Osiris, bene, dai, cosa vuoi dirci? E niente. Beh, niente, insomma, già un contenuto importante, insomma. Ce l'ho qua con il mio tato, che ha già fatto 18 anni. Sono già la mamma di un maggiorenne e basta. E basta, è una bella emozione, si vede dalla voce e da come lo dice. E adesso direi far salutare anche l'ultimo sopravvissuto della festa, che è l'ultimo amico. No, vabbè, saluta. Vabbè, saluta. La cugina maggiore, dai. Ah, la cugina maggiore, anche lei? Vai, cugina maggiore. Io sono Cindy e sono una delle sue cugine maggiori. E niente, ti auguro tanta felicità e spero che tu riesca a realizzare tutti i tuoi sogni, perché da oggi in poi devi iniziare a essere veramente responsabile. Grazie. Oh, bene, bene, dai, allora in bocca al lupo. Ciao. Al nostro festeggiato. Ciao, giustamente, ha salutato tutti. Già la cugina si è già innamorata del microfono, adesso non la stacchiamo più. Dicevo, bei messaggi importanti, insomma, per una festa altrettanto importante. Allora anche noi auguriamo al nostro neo diciottenne di esaudire tutti i suoi desideri e tutte le sue speranze. E ancora auguri per i suoi danni festeggiati qui con noi. C'è posto, vuoi salutare qualcuno tu? No. Sei a posto così? A posto così, sì. A posto, bene, bene. Allora auguri ancora al nostro Davide da Pozzolengo e buon 18° compleanno. C'è a posto? A posto. Ok, ciao Davide, grazie.